da marzo siamo i primi in Italia come negozio ecosolidale a inserire il prodotto fresco e sta andando molto bene, perché dà proprio questa continuità di spesa, perché uno entra qua, in città, prendo sì la cioccolata, i biscotti, però poi c'ho anche il latte, per dire, no? Faccio il budino e poi via andare, il prodotto fresco, il pane biologico e l'affettato che sappiamo da dove viene, capito? Seguiamo anche i produttori locali, scelte personalmente a Corredo, che poi qui tra l'altro è il valle dove fanno le cose ancora con un tempo, magari sono diciamo così piccole aziende, non tanto conosciute, invece diciamo anche grazie a noi seguite, conosciute. Un progetto che sto facendo adesso e vogliono valutare nel giro di quest'anno o il prossimo anno. Siamo delle cavie, nel senso è partito questo nuovo format, sì. E adesso probabilmente sarà esportato anche nelle altre regioni italiane, però diciamo, ci saranno questi 3-4 mesi per verificare un po', vedete anche l'esposizione, il layout ha una certa... Cercano una certa logica, insomma, anche la scavalatura tutta in legno così, è proprio perché vogliamo dare un'impronta delle cose naturali, delle cose comunque chilometri di zero, dei prodotti CTM. Produttori locali, noi per esempio abbiamo una macelleria, anche un caseificio qui vicino, ci poniamo lì. Sì, stanno incominciando ad avere dei riscontri. Oltre ai prodotti fatti nei masi qui delle nostre valli, abbiamo cercato di avere anche dei prodotti che siano comunque concorrenziali in come prezzo rispetto alla grande distribuzione, come è impensabile di trattare dei prodotti che sono magari fuori mercato, che comunque di nicchia, ecco. Dobbiamo cercare di avere anche dei prodotti che siano appetibili anche per chi cerca un formaggio buono e un prezzo ragionevole, insomma. E questo si può fare. Questo è un test che stanno facendo.